Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Gianluca, oggi torniamo ad affrontare l'argomento dei farmaci generici, perché è sempre importante, insomma, che facciamo capire come va il consumo di questi e se la gente sia abituata poi a ordinare un farmaco generico piuttosto che quello più famoso di marca pubblicizzato. Sì Francesco, torniamo a parlare anche in relazione a una recente indagine svolta dall'IRES Veneto e pubblicata da alcuni giornali. È un'indagine nazionale che rivela appunto un andamento che fa capire come ancora i farmaci generici siano un po' sottovalutati, diciamo così, snobbati dagli italiani e anche dai veneti. La ricerca in sé è molto interessante perché, diciamo, intanto punta l'attenzione sui famose ex ricette rosse, le potremmo chiamare, quindi diciamo i farmaci che vengono ordinati dal medico, quindi quelli mutuabili, quelli che in parte vengono rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Sì. Ricordiamo che questi farmaci, quindi non stiamo parlando del farmaco che vado a comprare senza ricetta, ma dei farmaci con ricetta, hanno una parte di copertura da parte della regione. Per quanto riguarda il Veneto, dobbiamo sapere appunto, se lo dice la ricerca, ma in realtà insomma lo dovremmo sapere, il ticket sui farmaci può variare dai 2 ai 4 euro per ogni confezione. A questi 2/4 euro si aggiunge un costo, che è esattamente, molto curiosa la cosa, che è esattamente la differenza tra il costo del farmaco di marca e il costo del farmaco generico. Cosa significa questo? Significa che il sistema nazionale e anche la regione ti dicono: se tu compri anche con la ricetta un farmaco generico, te lo passiamo totalmente. Ricordiamo che il prezzo del farmaco generico poi viene definito dall'AIFA e quindi ha un prezzo stabilito a livello nazionale. Se invece tu scegli il farmaco di marca, il farmaco griffato, io ti faccio pagare la differenza tra il prezzo di quel farmaco e il prezzo del farmaco invece non di marca, di quello generico. È un modo, insomma, per stimolare la gente a risparmiare e per dire alla gente: guardate che stiamo promuovendo il farmaco generico perché ha gli stessi effetti e chiaramente costa di meno. Ebbene Francesco, noi scopriamo invece che in realtà i veneti hanno speso molto proprio per comprare i farmaci di marca. Diciamo due numeri anche per non fare troppa confusione, e diciamo che nel 2015 ogni cittadino veneto ha speso una media di 26,20 euro per pagare la compartecipazione, diciamo, quindi sì, quando il ticket più appunto la differenza tra farmaco di marca e farmaco generico. Bene, diciamo che se avesse comprato solo farmaci generici, quindi farmaci non di marca, avrebbe speso solo 12,80 euro invece che 26,20 euro. Cosa significa? La traduzione di questi numeri è molto semplice. I cittadini, quando vanno in farmacia, hanno una ricetta dove solitamente il medico dovrebbe anche segnare il farmaco generico, questo non è detto, e generalmente il cittadino chiede il farmaco di marca. E questa è chiaramente una cosa un po' particolare, una cosa un po' strana. Ci chiediamo il perché, ma la risposta è anche abbastanza semplice. Sicuramente il cittadino è convinto che il farmaco di marca sia più efficace del farmaco generico. Ecco, posso interromperti in questo, perché certe volte capita che vai in farmacia e la farmacia in quel momento non ha il farmaco generico e ti propone il farmaco di marca. Quindi certe volte per non stare lì a cercare un'altra farmacia e non perdere tempo ti prendi quello che ti costa un po' di più, perché magari se no dovresti attendere il giorno dopo o cambiare farmacia. Quindi c'è anche questa considerazione che può giocare in questo modo a sfavore dei dati che hai. È una considerazione che fa fatta, perché è giustissima, quindi diciamo che è vero che a volte non c'è la disponibilità, però è anche un po' una questione di mentalità, anche perché sappiamo che insomma il farmaco generico è stato diciamo promosso negli ultimi anni, quindi non aveva una grande diffusione anche a livello di informazione. E è vero quello che dici te, e tra l'altro è vero anche che può essere, questo un po' anche l'accusa di chi fa la ricerca, che la stessa AIFA, che è l'agenzia del farmaco, magari abbassi e tenga basso il prezzo del farmaco generico in modo da aumentare poi la differenza tra i due prezzi e quindi aumentare la cosiddetta compartecipazione, cioè la quota che viene messa dal cittadino sostanzialmente per pagare il sistema sanitario, che sappiamo soprattutto nella nostra regione insomma è anche abbastanza funzionante, non possiamo lamentarci, però ecco, un cambiamento di mentalità da parte dei cittadini aiuterebbe comunque a un certo tipo di risparmio, anche se chiaramente toglierebbe un po' di risorse alla sanità, però insomma noi la guardiamo sempre dal punto di vista del cittadino. Bisogna dire che da questo punto di vista, proprio quindi del cittadino, un'associazione come Cittadinanza Attiva ha lanciato assieme ad altre organizzazioni la campagna Io Equivalgo, che è una campagna importante perché praticamente fa esattamente quello che stiamo dicendo adesso noi, cioè cerca di far capire che per quanto riguarda tutto, cioè la posologia, il principio attivo, la quantità anche di farmaci contenuti nelle scatole, la tipologia di somministrazione, non esiste praticamente alcuna differenza tra un farmaco di marca e un farmaco generico. Nessuno obbliga il cittadino che non si fida a comprarsi un farmaco generico. Se non si fida, noi diciamo: guardate che il farmaco generico è identico a un farmaco, è equivalente, infatti si chiama anche farmaco equivalente a un farmaco insomma di marca. Certo. Quindi se volete risparmiare anche con una ricetta rossa che magari è già in parte rimborsata dallo Stato, sappiate che insomma il farmaco generico fa bene anche per le tasche. Esatto, è equivalente nella sua funzione di salvaguardia della salute, ma costa di meno. Grazie all'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori, di Mestre, e saluto nuovamente Gianluca. Ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.